caso passa un via 4. Allora, ho introdotto l'altra volta il problema della definizione dell'uomo. Grazie. Allora. Le definizioni sintetiche degli esseri umani sono semplici, facili, della divisione di Aristotele, antropo, politico, l'uomo è un animale politico, ci sono quelle successive, l'uomo è un animale dotato di linguaggio, l'uomo è un animale sociale, politico, l'uomo è un animale più o meno sono tutte, dal più al meno, equivalenti. Noterete che in tutte c'è, in tutte queste definizioni sintetiche c'è la parola animale, e allora vuol dire, il momento parlo, facciamo parte di animale. Purtroppo l'ipocrisia degli esseri umani e del linguaggio è enorme, e quindi anche dietro a molte di queste definizioni si nasconde una trappola. Cioè il tentativo di definire l'uomo come un essere qualitativamente diverso. Anche l'omaggio di questa è l'opposto di quello. Io ho un approccio ai problemi della cultura e del pensiero rigorosamente monista. Io poi potete fare, non vi seguirò per questo, però certamente vi sorprenderò. Fare un sforzo per diventare il vostro dualismo. È ovvio che siete liberi di essere, diciamo, dualismo, quindi questo è il corso, un corso di vista rigorosamente monista, e cercherò pure di mascherare i falsi monisti. La volta scorsa abbiamo cominciato a prendere un esame di uno che mi pare abbastanza importante, che è relativo a questo testo. Allora, penso che abbiate il diritto di chiedermi, so che non lo direte, ma io anticipo la vostra domanda, la faccio io, non solo, ma perché lei è monista? Questa cosa non l'ho detta l'altra volta, quindi va bene anche se non la penso di ripetere l'altra volta. Effettivamente, ma perché lei non potrebbe essere dualista o anche ternario, o quaternario, o spettacolare, o equivalente, anche mania di ridurre sul lavoro. Allora, io sono monista perché dal punto di vista del metodo rimango fedele a una cosa che ormai dovete conoscere tutti, cioè avrete tutti letto il nome della rosa, chi non ha letto il nome della rosa, alzi la mano. Dice che le altre due l'hanno letto. Allora, chi ha letto il nome della rosa si ricorderà che a un certo punto Guglielmo da Baskerville trasparente riferimento a un vero filosofo, che gli chiamato Guglielmo, cioè William, ma a un quello punto dobbiamo abbassare il numero della rosa di Eco, fa esplicito riferimento al più noto principio con il quale William of Ockham, William di Ockham, si è assicurato l'immortalità nella storia della filosofia, cioè il principio chiamato il rasoio di Ockham. Sapete cos'è il rasoio di Ockham? Allora, ve lo scrivo. Il rasoio di Ockham è un principio metodologico. Ce lo scrivo sulla lavagna in latino, chiedete al latino di voi, altra mano, quindi ve lo traduco, no, io ve lo dico in latino lo stesso, perché. Perché Guglielmo di Ockham, in quanto filosofo della scolastica medievale che scrisse nel XVI secolo, scriveva ancora in latino, questo stesso di Guglielmo. Entia, entia o entia, non tunt multiplicanda preter necessità. Traduzione, entia è il plurale di ens, entis, al neutro plurale fatto. Gli enti non devono essere moltiplicati al di là di ciò che è necessario. Chiaro quello che dire? Questo criterio se si può costruire tutta la geometria di Euclide partendo solo da 5 asserzioni date per non dimostrate, chiamate postulati, è inutile costruire la stessa geometria usando 6 o 7 o 8 postulati. Si prova, trial, si prova, si sbaglia. Ce la faccio a fare questo con... C'è un famoso teorema di matematica che non è che è teorema, che è rimasto indimostrato, quindi il posto teorema, che è il cosiddetto teorema della carta geografica o il teorema dei quattro colori, che si chiede, c'è una domanda, si chiede quanti colori sono necessari per colorare i paesi di una carta geografica, ognuno, in modo che ognuno abbia un colore diverso, in modo che nessuno stato confinante sia colorato con lo stesso colore. I cartografi sapevano da tempo quanti erano, per pratica, sono 4, non si può fare la casa grande con meno di 4 colori. Ma non c'era un teorema, non c'era una dimostrazione, questa in realtà è una asserzione matematica, però a lungo non è stato un teorema, perché non è stato dimostrato, adesso è stato dimostrato una ventina d'anni fa con l'aiuto dei calcolatori. Quindi alcuni matematici particolarmente rimorsiosi con la tornato non la considera una vera dimostrazione, perché è una dimostrazione un po' strana, è molto lunga, però ormai è una cosa. Allora, se teorema o no che sia, posso colorare una carta grafica con 4 colori e non con meno, certo, qualunque, diciamo, tipografo, qualunque stampatore vi dirà bene, io la faccio con 4 colori, perché per usare 5 che spende di più, bisogna mettere più soldi, la farò con 4. Entia non sunt multiplicanda preter necessità, certamente uno di sé. Bisogna vedere che cosa, questo che cosa significa nella, diciamo, nel ragionamento umano, che tutte le cose che io posso spiegare senza fare ricorso a ipotesi supplettive è meglio che le spiego con quello che ho a disposizione, se riesco, se non riesco a spiegarle. Naturalmente questo è un principio, diciamo, generale. So bene che nessun credente, nessun dualista, nessuno che chiede a Dio, che chiede all'esistenza dell'anima, eccetera, farà contente lui, è chiaro che mi dirà, guarda che Ockham aveva ragione, però tu in realtà non sei in grado di spiegarmi, per esempio, perché l'uomo ha il linguaggio e gli altri animali no. Questo, devo dire, qui perché questa, sono cose, sono, però poi dopo vedremo anche più avanti nel corso, capire. capiremo quali sono i limiti, diciamo, della derivazione, cioè del discorso vero, che cos'è la verità, insomma. Per il momento, provvisoriamente possiamo limitarci a prendere atto del fatto che la necessità, e la necessità nei discorsi, nello sviluppo dei discorsi sull'essere umano o sulle società, è un concetto soggetto a discussione, cioè non c'è accordo su quali siano, ovviamente i criteri da adottare. Però il come dire, questo per me, questo principio chiamato raffreddamento, che si chiama rasoio, perché è un modo un po' tagliente certamente per determinare quale scelta prendere per l'una e l'altra, no? Quindi, se io sono in grado di spiegare, posso costruire un discorso sull'uomo senza fare riferimento a enti trascendenti, per esempio a Dio, lo faccio senza fare riferimento a Dio, perché uso il donatore di Occa. Certamente sì, può essere detto sì. È lecito che uno che ha un altro approccio introduca, per esempio, diciamo il concetto o l'ipotesi della esistenza di un essere affine all'uomo ma diverso da lui, per esempio non dotato di corpo, che chiama Dio. Bisogna dire però che il teista, cioè colui che crede nell'esistenza di Dio, come contrapposto all'ateo o all'agnostico, colui che ritiene che Dio non esista, o meglio l'agnostico, colui che ritiene che il problema dell'esistenza o meno di Dio sia un problema indiscutibile, non è dimostrabile che Dio esista, come non è dimostrabile che non esista. Certamente si possono essere attenzioni sulla probabilità. Io non sono in grado di dimostrare che Dio non esista, però asserisco che è molto improbabile che ci sono pochissime probabilità che esista. Ma dallo stadio, per quello che noi ne sappiamo, per quello che abbiamo in giro, l'esistenza di Dio non è una cosa molto molto probabile. Voi giustamente opponete a questo ragionamento, ma come mai allora praticamente tutte le culture umane hanno supposto l'esistenza? E io questo ve lo chiedo di Occam, con una serie di meccanismi, diciamo, individuali e collettivi degli esseri umani, che fanno parte della psicologia o della psicologia sociale, in cui il principio principale è quello di proiezione. Cioè, l'essere umano, in quanto dotato di linguaggio, praticamente proietta fuori di sé tutta una serie di cose, per cui può benissimo proiettare fuori di sé una immagine idealizzata di se stesso, idealizzata e molto potenziata. Non pretendo che questa sia la verità, che come sarà chiaro dal resto del corso, più o meno potrebbe anche essere così, potrebbe anche essere che questa componente della... Il principio proiettivo ha un sacco di faccettature, c'è quella che dici tu, c'è quella di potenziamento di se stesso, c'è quella di credere di essere affine con qualche cosa che è molto più forte di lui e molto più grande di lui, tutte le regioni, questo si vede specialmente bene nelle regioni politeiste, quelle che potrebbe essere questo, si può, diciamo, ottenere in tanti modi, ma al fondo il meccanismo di fondo è sempre quello, è una proiezione, cioè, ed è una proiezione derivata dal fatto che l'uomo è un animale linguistico, perché il linguaggio è essenzialmente proiezione al di fuori di sé, raddoppiamento del cosiddetto reale per costruire un reale, se volete, addomesticato, come lo chiamiamo mondo, e che è essenzialmente una costruzione linguistica, poi certamente anche materiale. Però diciamo, nella sua, nel suo principio più essenziale. Allora, il rasoio di Occam quindi non può dimostrare il monismo, ma l'opzione monista come quella dualista sono in sé indimostrabili. Il rasoio di Occam però può indicare una preferenza verso l'una o l'altra soluzione. Allora, il rasoio di Occam inclina a preferire una soluzione monista piuttosto che una dualista. È indimostrabile se non esista più che una sostanza al mondo. Come è indimostrabile che ne esistano due, materia e spirito. Ma in base al principio di Occam, alla regola di Occam, è preferibile che ne esista una piuttosto che due. Perché l'ipotizzare un qualche cosa di diverso da quello, dall'unica cosa che io posso realisticamente con i miei sensi e anche col mio intelletto padroneggiare, implica uno sforzo, implica l'aggiunta di qualche cosa. È una complicazione innecessaria, innecessaria e adesso non voglio fare tutto il corso, diciamo su questo, ma io posso aggiungere anche pericolosa, perché diciamo, nel nome del dualismo posso, posso per esempio dare una serie di esempi storici in base ai quali, i principali dei quali sono le guerre di religione, in base ai quali si vede che le ipotesi dualiste hanno delle conseguenze spesso negative per molti esseri umani, per esempio portano guerra, distruzione, bisogna dire che questa, diciamo, questa che non è una dimostrazione, ma insomma questo approccio storico vale prevalentemente per le religioni monoteiste, non ci sono quasi mai stati guerre di religione tra le religioni politeiste. I politeisti, proprio perché hanno tanti dei, sono relativamente tolleranti per sé, Sapete come facevano gli i romani antichi, popolo opportunista quanto altri mai. Loro avevano, quando erano in guerra con un popolo, la prima cosa che sapevano è che informavano chi era Dio o la dea più venerata da questo popolo. E invece di fare una guerra contro questa dea, facevano appunto una cosa, aprivano un tempio a questa nuova dea a Roma. Perché facevano così? Perché era un tempio anche bello, con grande ragionabilità. Così questa dea si accorge che viene venerata a Roma meglio che tra i suoi cittadini originari, e in questo modo smette di dare la sua protezione a quel popolo qua e passa dalla parte nostra. Dimmi. Proprio non muoiono mai, si riciclano in continuazione. Però diciamo, è indubbio che ci sono tre grandi religioni monoteiste al mondo, che sono tre, non ce ne hanno, vengono tutte da una. Così si inserirà le religioni del mondo. Quindi ebraismo, cristianesimo e islamismo. Poi ci sono anche religioni tentative, cioè ci sono le religioni. Anche religioni, perché fanno i culti, fanno le robe, fanno l'ovvio, fanno il sono religioni. Però è la religione in cui che non ti diciamo costringe a venerare nessun essere. Un modello di vita, una roba così, Dio però non c'è praticamente nella idea buddista, non c'è un Dio personale, non c'è un Dio, come dire, personale. In realtà puoi sposare anche usare il termine Dio volendo, basta. Possiamo intenderci, se fu un filosofo ebreo del XVII secolo, che faceva l'ottico ad Amsterdam, ed era perseguitato tanto dalla sua comunità di diciamo, di origine israeliana, ebrei, quanto da quella di arrivo, cioè di cristiani, che si chiamava Baruch Spinoza, il quale coniò questo motto, questo modo di dire, gli dice, se Deus sive natura, Dio o la natura, Dio, una specie di panteismo, cioè lui semplicemente usava il nome Dio, ma intendeva con il nome Dio la pluralità, la potenzialità, tutto ciò che la materia può esprimere e che, insomma, va. Allora, il monismo non è dimostrabile, come non è dimostrabile il, diciamo, dualismo, come non è dimostrabile il rasoio di Occam, certo che non è dimostrabile. Perché dovrebbe essere dimostrabile? Chi cazzo l'ha detto? Che gli enti non devono essere moltiplicati al di là della realtà? È un approccio etico che tu fai, non è dimostrabile razionalmente, è un approccio etico. Tu dici, io voglio basare la mia vita, e quindi in modo particolare il mio modo di pensare, su questo principio. E lo voglio perché io lo trovo più comodo così. È una scelta che io faccio, è una scelta libera. Sono libero anche di rigettarlo. Io, per questo che vi dichiaro le origini del mio monismo e la mia giustificazione, non per... Esatto, bravissimo, nessuno mette bisogno di dimostrazione. Però uno potrebbe, sarebbe secondo me una scelta sconsiderata, però uno potrebbe dirmi, guarda, tu me lo devi dimostrare, no? Come fanno i bambini, perché noi devi dimostrare. Allora ti dico no, questo è un principio, i principi di metodo non si possono dimostrare, si accettano o non si accettano. La cosa importante è che ogni uomo è libero di accettarli e quindi se uno sostiene il rasoio di Occam, per esempio io, deve essere però contemporaneamente anche disposto ad accettare il diritto di altri di non accettarlo. Certamente però che se uno non accetta il rasoio di Occam, io non ho il, come dire, diritto di imporglielo, ma lui non ha il diritto di imporre a me, che invece lo accetto, le conseguenze che trae lui che non lo accetta. Lui, sì, lui deve essere, riconoscere il diritto di chi non la pensa come lui, non solo a pensare diversamente, che è ovvio, questo è ovvio, ma lo deve lasciare libero, lui deve lasciare libero me, che sono seguace del rasoio di Occam, di trarre tutte le conseguenze che nella mia libera scelta io traggo da questo, come dire, la principale di queste conseguenze per me è il monismo. Cioè, non esiste altra sostanza al mondo che quella che può essere fatta oggetto dell'esperienza sensibile, e cioè la materia. Tutto ciò che apparentemente non è materia è in qualche modo che spesso io non so, riconducibile o collegabile con la materia. Il secondo principio che io traggo dal rasoio di Occam è il relativismo. Però siccome sul relativismo faremo le lezioni successive, adesso e per il momento lo metto, diciamo, da parte. Comunque, diciamo, il rasoio di Occam mi porta a pendere dalla parte A delle alternative e a rigettare la politica. Attenzione, dal punto di vista del metodo io devo anche riconoscere il diritto di qualcuno che segua il rasoio di Occam a scegliere la parte B. Sinceramente nella mia vita, che come potete rendere conto guardando il mio lunga e anche un po' esclusiva da vari punti di vista, non ho mai trovato nessuno che accetti il rasoio di Occam e che abbia seguito la parte B delle alternative. Ma se ci fosse sarei ovviamente disposto a discutere con lui, perché, perché nella mia impostazione la cosa principale è la salvaguardia della autonomia e della libertà di ogni singola persona di utilizzare gli strumenti che ha a disposizione nel modo che lui ritiene migliore. Vedremo poi quindi che cosa comporta essere relativista e che cosa comporta essere universalista, e vedremo che gran parte delle obiezioni che gli universalisti fanno ai relativisti non la fanno in realtà ai relativisti. Diciamo, gli universalisti di fatto accusano spesso, la maggior parte delle volte, accusano i relativisti di dire cose che i relativisti non dicono mai. Il relativista non dice che la verità non esiste, si guarda bene dal dire, come si guarda bene dal dire che Dio non esiste. Dirà che l'affermazione, la verità esiste, è indimostrabile, come la sua opposta, la verità non esiste. Sono alcune produzioni linguistiche, per nostra fortuna, che sono indecidibili, che noi non possiamo, indecidibili, non possiamo decidere se sia vera lei o se sia vera. Tutte queste, la gran parte, o perlomeno le più importanti di queste affermazioni, sono oggetto di altre scelte, non di tipo intellettuale o di cognitivo, ma di tipo etico, di tipo comportamentale. Uno le sceglie a seconda di quale comportamento vuole realizzare nella propria vita. La mia scelta per il monismo e per il relativismo è, dal mio punto di vista, io la collego a un'altra scelta che faccio, cioè al mio amore per la libertà e per l'autonomia della persona. Anche questo non posso dimostrare, non c'è nulla da, come dire, dimostrare, è un desiderio. Io mi guardo intorno e vedo che in ogni persona c'è una aspirazione all'autonomia e alla auto, come dire, sufficienza, pur nel rapporto con gli altri, ma alla autofondazione, no? Al fatto di reggersi con le proprie gambe e al non farsi condizionare a utilizzare la nostra essenza di animale sociale per potenziare il proprio potenziale individuale e non per deprimerlo. Ma tutto ciò non è a sua volta dimostrabile, è un approccio etico, è una scelta che deriva dal fatto che l'uomo è un essere più o meno libero. Quindi io mi sforzerò di farvi vedere per tutto il corso come questo insieme di approcci e di scelte siano collegati gli uni con gli altri, e voi naturalmente, se ce la farete, siete non solo liberi ma siete fortemente invitati a segnalare le difformità, cioè quello che voi vedete, e eventualmente di disforme, dice no, però qui non ho mai capito perché tu fai questa connessione e io non la vedo, cosa la base, no, quindi sarà, questo corso non è fatto perché voi abbracciate il mio punto di vista, è fatto perché voi diventiate il più possibile degli esseri autonomi e autoformati e autoformanti e in autoformazione, che io credo sia il mio problema. Allora veniamo adesso alla concezione dell'uomo. Il dualismo ha una storia molto antica, il dualismo, adesso non parliamo dell'universalismo, che spesso è associato chiaramente all'universalismo, uno potrebbe pensare che le cose sono orientate, anche il dualista deve essere relativista, no, invece quasi sempre gli universalisti sono anche dualisti, perché non è possibile affermare un universalismo, o meglio, l'unico universalismo possibile per un umanista è quello della materia, certo, che l'universalismo non vuol dire che niente nulla di universale, c'è qualcosa di universale, questo. L'unico universale possibile per un monista è la materia. Ma ovviamente la materia è... La materia non è nulla di particolarmente definito. La materia è un campo di possibilità, un campo di potenzialità. Ci sono 91 gli elementi. Che sono utilitari, ma una volta che sono stati prodotti hanno diritto anche loro di entrare nel sistema, come dire, materiale. Ma al di sotto di questi 91 ci sono delle componenti più piccole e la scienza le sta trovando costantemente di quelle più piccole. Adesso sappiamo che gli elettroni e i protoni non sono i costituenti ultimi della materia, che ognuno di essi è costituito da un sistema di particelle chiamate quark. Ma anche l'ipotesi dei quark non è soddisfacente, quindi adesso gli scienziati sono alla ricerca di qualche fondamento ancora più fondamentale del quark, e lo individuano alcuni di loro in una sorta di stringhettina, primigenia, una stringa, una cordicella piccolina, lunga all'incirca 10 alla meno 33 cm, che più o meno è la dimensione di Planck, 10 alla meno 33 cm, 10 alla meno 33 cm, sapete come dire, eh? 32 zeri e al primo posto un 1 di centimetro. Ma anche se troveranno questa ipotetica substringa o superstringa che, fluttuando e muovendosi in modo diverso, dà origine alle diverse specie di quark e quindi alle diverse specie di combinazioni di quark, eccetera, eccetera, noi non saremo mai sicuri che questa sia il vero fondamento ultimo della materia. È l'unica cosa che noi in realtà possiamo dire da un punto di vista generale, non dico scientifico, sulla, come dire, materia, è questo: la materia è un campo di possibilità, la materia è un insieme, è una infinita combinatoria possibile di elementi che non sappiamo neppure bene quali siano, perché ne troviamo di sempre più minuscoli e sempre più fondamentali, no? Cioè, da quando Democrito, filosofo greco del terzo secolo avanti Cristo, Democrito di Abdera, per primo formulò, no, in realtà Leucippo prima di lui e poi Democrito che era suo, diciamo, formulò per primo l'ipotesi che la materia fosse costituita di piccoli costituenti, che lui chiamò costituenti indivisibili, atomo, aterno, che non si può dividere, poi in realtà che cosa non era così. E diciamo l'ipotesi atomistica, ironia della storia, lui era convinto di dare origine, di avere trovato il primo, di avere trovato il costituente ultimo della, come dire, materia. Poi dopo molti secoli il cristianesimo fu una cosa importante, ma dal punto di vista culturale non c'è un granché bene, molti secoli la conoscenza ristagnò, insomma, forse per 1400-1500 anni, dopo 1300, diciamo, dopo la definitiva fine della cultura ellenistica, che invece era andata già avanti, quando si riprese quella via, si trovò che proprio sulla scorta di questi studi sull'atomismo, in realtà questi atomi non erano affatto indivisibili come avevano pensato Democrito, Leucippo e Lucrezio, che è lo scrittore latino, che è l'unica fonte che noi abbiamo ormai del pensiero atomistico, che tutte le opere greche si sono perse, ma per fortuna è rimasto questo De rerum natura, sulla natura delle cose, di Lucrezio, che era semplicemente un poeta, ma scrisse un poema esponendo le teorie di Epicuro, che era uno dei seguaci di questi atomisti famoso. E Allora, il dualismo ha delle origini lontane. Ci sono, se uno si mette a studiare se stesso, a studiare le culture diverse da quella europea, dalla nostra, appunto, le tante culture orali, quelle pochine che l'uomo bianco, che l'uomo occidentale ha permesso che sopravvivessero alla sua espansione planetaria, dopo averne sterminato un certo numero, anche in alcuni pochini, no, però hanno sterminato un po' molto diverse dalle nostre, quindi nacque l'etnografia e poi l'etnologia e poi l'antropologia eccetera eccetera, e si comincia a studiare. Allora, ci sono spunti dualistici anche in culture diverse, ci sono in parte nella cultura egiziana, pochissimi nella cultura ebraica, pochissimi. Se voi guardate nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non si parla mai di anima. Sì, beh, all'inizio quando Geova, l'innominabile, colui che è il Signore, Adonai, crea l'uomo, crea congrega Adamo, in realtà fa una cosa molto materiale, cioè molto materiale, insomma, perché la Bibbia usa un verbo che equivale grosso modo a soffiare, no? Questa era un'idea che avevano anche gli stoici, che la vita fosse un soffio, fosse un respiro, fosse una specie di fluido che pervadeva, diciamo, l'universo. Embrionalmente l'idea del respiro di Dio, o degli stoici che invece parlavano di pneuma, di polmone, no? Di respiro, di fiato dell'universo, potenzialmente sono punti di vista dualistici, ma non sono un dualismo esplicitato. Per tutto l'Antico Testamento voi non trovate un pensiero dualista. Il pensiero ebraico non è un pensiero, ha delle tentazioni verso il dualismo, ma per esempio non parla scarsissimamente della vita degli esseri umani dopo la morte. Il pensiero greco e quello latino avevano sì una idea che l'uomo sopravvivesse a se stesso, ma erano pochissimo dualisti. Se voi leggete i resoconti del viaggio di Odisseo all'Ade, di Ulisse a Odissea, o di Virgilio nell'Inferno, nell'Averno, nell'Eneide, che è preso da quello, trovate che tutte e due queste descrizioni del mondo dei morti, del mondo dei morti, i certi ossi ne abbiamo meno, quindi non si troveva, diciamo Omero, che è quello, Omero, e questo mondo dei morti è un mondo di corpi, sono corpi un po' strani, un po' eterei, certo. Virgilio serve, Virgilio, Enea cerca di abbracciare Didone e si trova a stringere le braccia al petto, dice oh. Però l'aspetto è corporeo, è un corpo sottile, un corpo evanescente, ma non c'è l'idea che questi siano spiriti. Lo stesso Dante, che invece è erede di una cultura dualistica, eccetera, quando ha dovuto descrivere comunque l'inferno, il purgatorio, il paradiso un po' meno, ma anche in paradiso c'è la metafora antropomorfa, proprio a fare, questi esseri sono corpi umani di tipo un po' diverso, di tipo sottile, esattamente come, diciamo, da lì viene l'idea, queste idee bizzarre del corpo astrale, della cosa, eccetera, eccetera, no? Se uno dei primi effetti speciali del cinema è nel film Vampir di Carl Theodor Dreyer, nel 1927 o 28, in cui si vede il protagonista disteso, che dorme, disteso, orizzontale, sulla da dove parte, a questo punto si vede il suo doppio che si alza, lui ovviamente è una sovraimpressione, uno dei primi trucchi, dei primi effetti, diciamo, speciali, è questa persona ed è un corpo etereo, un corpo quasi trasparente, perché è fatto ovviamente con la posizione della quella pellicola, vedete questo corpo astrale che si alza, ma è sempre il suo corpo, è sempre il suo. Non è dall'ebraismo, ereditato la sua forte componente dualistica, il cristianesimo, come l'Islam, sono invece religioni, sono invece modi di pensare, pensieri, filosofie fondamentalmente dualiste. Il dualismo arriva al cristianesimo dall'altra componente culturale dalla quale deriva il cristianesimo. Una, l'abbiamo detto ovviamente, all'ebraismo, ed è la più insospettabile, perché l'ebraismo non era il centro culturale di nulla, era la cultura di 12 tribù, di ex pastori e nomadi da poco tempo convertiti all'agricoltura nel paese che oggi si chiama Palestina, che poi il posto dove giustamente discendenti degli ebrei dopo secoli e secoli di esilio rioccuparono, e si ripresero con una certa violenza nel 46-48. Quindi è un po' strano che fosse, però poi ha avuto successo. Ma l'altra, c'era l'altra grande componente, l'altra metà, se per dirla in termini un po' romanotti, ma l'altra metà della teologia cristiana è quella platonica, viene da Platone. E cioè quello è una parte, non è tutta, una tendenza della filosofia greca, classica, che ai tempi in cui il cristianesimo nacque era soprattutto nota per i rappresentanti della, ormai erano passati quasi quattro secoli, più di tre secoli dalla esistenza di Platone, che erano i neoplatonici, cioè una serie di pensatori alessandrini, il principale dei quali è Plotino, in quale avevano ripreso le idee platoniche. Platone fu il grande fondatore, e quindi capirete bene che è una delle mie pensiere principali. Non posso parlare male, ma posso parlare bene, definitivamente, perché è stato ritorno interessante, però da questo punto di vista è lui il mascalzone, è lui il responsabile. Platone fu il primo, con il famoso mito dell'Auriga, nel suo dialogo Il Fedro, che fondò una antropologia dualista. L'antropologia dualista è affascinante perché? Perché utilizza una versione, io dico bastarda e adulterata, della teoria di Occam. Cioè dice, basta una ipotesi sola in più e abbiamo spiegato tutto il carattere composito, contraddittorio degli esseri umani, del comportamento umano. Dice, come mai gli esseri umani, alcuni sono buoni, alcuni sono cattivi, alcuni sono sapienti, altri sono ignoranti, alcuni sono così, altri sono così, perché c'è questa disparità di comportamento? Dice Platone, basta supporre che nell'uomo agiscano due nature diverse, due sostanze diverse. E Platone lo spiega così nel suo dialogo chiamato Fedro, con la metafora del carro. È come se, dice, l'uomo, l'essere umano, fosse un cocchio, fosse un carro alato, un carro portato da due cavalli alati, no? Che quindi può volare per l'aria. Di questi due... Cosa? Sì, di questi, no, non da una parte all'altra, uno che tira in alto e l'altro che tira in basso. Di questi due cavalli, però ci sono cavalli alati, però uno è buono, ed essendo buono tende ad andare nell'iperuranio, cioè nello spazio al di là di Urano, l'ultimo pianeta conosciuto ai tempi di Platone, nello spazio di Urano, e lì contemplare l'essenza, stare con gli dei, vivere con gli dei, stare con gli dei. Tra l'altro invece, l'altro cavallo, stronzo, è un cavallo cattivo, è un cavallo che vuole il male e quindi non vuole andare verso l'alto, vuole andare verso il basso. Dice quindi l'auriga, il guidatore di questo carro, deve stare bene attento, deve contemperare le due esigenze, deve ovviamente cercare di favorire il cavallo che va verso l'alto. Dice, ma a volte se non ce la fa, il cavallo che tira in basso fa dei casini terribili, perché dice addirittura è una metafora, una similitudine molto molto precisa, perché dice, battendo tanto le ali, può addirittura diciamo, non solo guastare le sue, ma anche danneggiare le ali del cavallo buono, no? Perché sono ali, sono grandi, quindi si tiene, eccetera. E quindi spesso alcuni di questi cosa fanno? Cazzano verso terra, no? Cazzano verso terra. L'idea fondamentale, insomma, dell'ipotesi dualista è che esista una sostanza chiamata anima, spirito, quello che insomma volete, che convive, coabita in maniera conflittuale, fortemente conflittuale, con un'altra sostanza chiamata corpo, che è la materia, no? Ed è come se la vita di questa sostanza spirituale dentro il corpo è come se fosse un esilio. L'anima è esiliata, alcuni testi gnostici dicono il corpo è il carcere dell'anima, lo gnosticismo è una serie di varianti del cristianesimo fiorite tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo e poi dichiarate legittime, insomma, messe al bando, insomma, dalla comunità cristiana di Chiesa alla fine del terzo secolo dopo Cristo, ma che ebbero una grande, come dire, fortuna. E sono particolarmente dualiste, tutti gli gnostici sono iper, diciamo, dualisti, molto più dualisti del fondatore del cristianesimo, che io so che voi pensate che sia Gesù, ma non è lui, il poverino, non si è solo limitato a fare qualche predica lungo il lago di Gesù, non aveva mai le barzellette che dicono, ah, se sapessi che è dato, se noi come ho fatto 2000 anni fa, non sono così strane, perché Gesù non ha mai avuto, da quello che sappiamo noi, alcuna aspirazione a fondare alcunché. In realtà la vera persona che fonda il cristianesimo è un convertito, un pagano convertito nella sua vita, che non ha neanche mai conosciuto Gesù, ma ha soltanto conosciuto alcuni dei primi di Gesù, particolarmente fanatico come tutti i convertiti, particolarmente misogino, questo non perché tutti i convertiti lo siano, che si chiama Paolo di Tarso, il vero fondatore del cristianesimo, è lui, è nelle lettere di San Paolo che trovate la sostanza di tutto quello che poi è passato nelle cose, molto più evangelico, una roba è scritta così, vabbè, uno Gesù era una brava persona, c'era un sacco di cose pratiche, Dio si voleva, però insomma era uno che era sostanzialmente preoccupato di una sorta di rigenerazione morale del popolo ebraico ai suoi tempi, non voleva né fare politica né niente. È anche il vero fondatore, cioè è anche quello da cui vengono tutte le, ed è il più ed è quello che accentua il carattere platonico dei quattro come dire Vangeli ufficiali, a parte quelli apocrifi, uno solo ha una impronta neo platonica ed è quello di Giovanni, che non a caso è il più difforme dagli altri tre. Gli altri tre non c'hanno, diciamo, non traspare ben poco di platonico, di platonismo, l'unico vero in cui va bene, cioè, è quello di Giovanni. Ma è stato San Paolo che ha sviluppato prevalentemente questa parte platonica, neo, come dice platonico, quindi fortemente dualista, eccetera, eccetera, e ne ha fatto la base, il fondamento della dottrina, diciamo, cristiana. Quindi non solo è, come dice Gartner, il principale filosofo della prima fase del cristianesimo, come Agostino lo farà di qualche secolo dopo, insomma, il quinto, diciamo, alla fine dell'epoca di sistemazione, ma poi i primi tre secoli sono un casino perché si combattono ariani, cose, non vuol dire di razza ariana, seguaci di Ario contro gli anti-ariani, monofisiti contro gli ariani, gnostici contro non gnostici, ma un casino. Poi con il concilio di Nicea, 320, non mi ricordo bene, si mettono, diciamo, la linea paolina vince, dopo due secoli, dopo sconfitti due, insomma, secoli dalla morte di San Paolo, la linea paolina vince, vengono sconfitti gli ariani, i monofisiti, si stabilizza il dogma trinitario, che sono tre secco, che non è una conoscenza, che dà il mondo e le persone. Ci sono altre trinità, ma non come però, quella cioè, indù è una trinità che sono tre persone diverse. Poi c'è Shiva che può cambiare, eccetera, quello è ovvio, è vero, quello tutti cambiano, ma non c'è questa idea, queste sottigliezze di un'unica natura in tre persone, cioè queste cose là che così non c'era un cazzo di meglio da fare nella vita che stare a pensare a queste robe qua. Vabbè, comunque è il concilio di Nicea che in gran parte, poi dopo vengono le cose dopo, comunque è quello che sancisce la storia di Nicea. Ma insomma, qui non stiamo parlando di Galen perché io l'ho fatto lunga. Perché volevo, per arrivare a Galen, volevo farvi una breve storia del dualismo. Allora, diciamo, Platone è il vero fondatore del dualismo, quindi è quello che sostiene, la cui filosofia sostiene che ci sono due sostanze diverse, diciamo, quello che lui chiama il corpo e l'anima, e qui linguisticamente usa un termine greco che prima di lui non aveva questo significato, che è il termine psiche. La psiche platonica, la nostra psiche, è una psiche diversa, il termine psiche comincia con Platone a cambiare nome. Prima di Platone psiche è semplicemente una descrizione, come dire, degli aspetti più, virgolette, immateriali e comportamentali dell'uomo, ma non implica una vera, diciamo, concezione dualista. Platone comincia a chiamare psiche invece, psiche in greco, questa sua sostanza spirituale opposta, diversa dal corpo, che lui ipotizza, no? E quindi è quello che spiega con il mito del corpo. Il principale discepolo di Platone, Aristotele, sul tema del dualismo, gioca a fare un po' il furbo. Cioè Platone, Aristotele scrive da quello che scrive che non ha questo afflato, diciamo, dualista, neanche iper riformatore, utopistico che aveva Platone, non gliene frega molto. Però, siccome fa polemica con Platone su un sacco di altre cose, questo tema non lo affronta in modo esplicito. Quindi voi trovate, come dire, Platone continua a utilizzare il termine psiche nel Aristotele, continua a utilizzare il termine psiche nel senso platonico senza insisterci troppo, cioè senza fondarsi sopra una teoria, però senza neanche fondare una, diciamo, teoria rigorosamente materialista o monista o non dualista, comunque, o anche diciamo dualista. Il cristianesimo fa, come vi ho detto, diciamo, confeziona la frittata che abbiamo mangiato per 1500 anni in fila, diciamo da quando è nato il cristianesimo fino a grosso modo all'inizio dell'epoca moderna, e non solo fa questa frittata, non solo ci, diciamo, stabilisce il menù per tutti quei secoli a, diciamo, venire, ma condiziona pure i tentativi successivi di revisione di questo menù, perché tutta la storia della filosofia successiva, cioè dall'inizio del Rinascimento, insomma, fino ad oggi, è caratterizzata da un fatto curioso, cioè da tutta una serie di falsi o incompleti, o nel peggiore dei casi truffaldini, tentativi di rifilarci il dualismo che si fa finta di cacciare a pedate dalla porta, via, dualismo, via, e poi si apre la finestra. E se mentre noi siamo tutti lì che guardiamo la porta, ah, c'è il dualismo, che bello, questo viene. Così è, è talmente potente, così forte, non è strano, perché è così radicata nelle nostre abitudini linguistiche. Il dualismo è figlio del linguaggio. Nel momento in cui noi siamo abituati, ce l'abbiamo, è, come dire, fa parte della nostra esperienza, io guardo Fabio, parlo con Fabio, sento quello che dice Fabio, ho un rapporto con Fabio, poi parlo con Alessandro di Fabio, parlo con un'altra persona di Fabio e si conoscono, vado da un altro amico che non conosce Fabio e gli parlo di Fabio. C'è un sacco di doppi di Fabio in giro, c'è un sacco di doppi miei in giro quando voi parlate di me tra voi. È proprio Carolina quello di cui parlate, sì. È un'altra cosa, è una proiezione, proiettate, ci mettete delle cose vostre, ognuno di noi fa così, il mio Fabio, mica è Fabio, non posso avere la... cosa? A quel punto lì non è dualistica, ma sono le condizioni, noi siamo abituati e siamo fortemente abituati al raddoppiamento delle esperienze. Fa parte, perché il linguaggio opera così. Allora, no, sto cercando di spiegare come mai, perché lui dice, ma perché allora dice, allora tu sei scemo, dice, scusa, se tu sei monista, però ci racconti e ti spieghi che la gran parte delle culture umane sono poi dualiste e che questo dualismo, anche quando si fa finta di dire no, siamo monisti, in realtà sotto si scopre che sei sempre dualista. Come mai? Sto cercando di spiegare questa cosa, sto cercando di spiegare il grande successo delle filosofie dualiste. Che ovviamente perché mi illudo che se io, e quindi anche altri, ma io in primo luogo, se io ne capisco le ragioni del, come dire, successo, sarò in grado maggiormente di neutralizzarle queste, diciamo, ragioni, perché le ho comprese, perché le ho capite. E dico, mi pare che possa essere detto che una, per me, la principale causa del grande successo del dualismo nel contesto umano sta nel fatto che è il modo più semplice e più facilone, certo, più stupido anche, di prolungare la moltiplicazione del mondo attraverso il linguaggio, invece di accettarla come un semplice fatto strumentale o un semplice fatto espressivo, e cioè che noi costruiamo il mondo con una pluralità di linguaggi e quindi con un riecheggiamento, con una ricostruzione dell'esperienza, con una continua ricostruzione linguistica della nostra esperienza, invece di accettare il carattere relativo e contingente di questo nostro lavoro, diciamo, linguistico, prendiamo alcuni aspetti di quello linguistico e li ipostatizziamo, cioè li mettiamo su di un piedistallo, li eleviamo e diciamo questa è l'altra sostanza del mondo. Invece di riconoscere nel linguaggio una fra le tante, fra i tanti risultati dei processi della materia, noi siamo esseri materiali, siamo animali che parliamo, abbiamo una produzione linguistica, e quindi ovviamente in questi limiti con il linguaggio è... Ma il linguaggio non ha una sostanza diversa, non è una sostanza, non c'è nulla che ci autorizza, è soltanto il meccanismo proiettivo e la nostra abitudine a convivere con i prodotti del nostro linguaggio che fanno sì che a un certo punto alcuni di questi prodotti si ergano contro di noi, di fronte a noi, come potenze indipendenti. Ecco la nascita del, come dire, dualismo. È come il bambino che traffica con il sapone e non riesce, a un certo punto soffia in una cannuccia e per caso fa le bolle, e guarda ed è stupito di quello che ha fatto, perché non ha idea del come abbia creato la bolla di sapone. E quindi spontaneamente attribuisce a queste bolle una sostanza che non hanno, sono prodotti del suo fiato dentro sulla pellicola di acqua oleosa, resa scivolosa e oleosa, questa emulsione con il sapore, sono pellicole che si tengono, sono infatti scoppiano dopo poco, ma nel breve istante in cui vivono il bambino che le ha prodotte e non capisce perché le ha prodotte, gli sfugge la ragione, li considera come degli oggetti autonomi dotati di una loro, che hanno una loro storia, una loro, quindi l'essere umano trasforma un fenomeno in una sostanza, in una essenza, trasforma un prodotto della sua attività in qualche cosa che è indipendente da lui. Questa è la, io non trovo altra origine psicologica della ipostatizzazione, cioè del prendere e portare fuori di me e far ergere questa cosa come autonomo. Tu esisti, tu esisterai anche quando io non ci sarò più. E invece io non esisterà più, Caronia non esisterà più, quando Caronia sarà morto, non ci sarà più il Caronia che c'era quando Caronia era vivo. Ci sarà nelle vostre teste, se ci sarà, se voi, nel vostro, cioè passerà, diventerà un pezzo della vostra autonomia o di quelli che mi hanno conosciuto. E tra l'altro mi diranno, finalmente sotto dalle palle per rompere i coglioni, non avremo più sostituzioni che ci ha creato quando era vivo. Ma non c'è nessuna sostanza di Caronia che sia indipendente dal corpo di Caronia. Finché Caronia parla, scrive, relaziona, parla con le persone, va in piazza, fa casino, si sbaglia, eccetera, eccetera, lui esiste. Nel momento in cui non ha smesso questa attività, non c'è nessuna sostanza di Caronia che gli sopravvive, se non gli effetti delle sue relazioni. Gli effetti delle mie relazioni avranno gli effetti in altre, diciamo così. Il principale autore di questa cacciata dalla porta e rientrata dalla finestra è un francese del XVII secolo che si chiamava René Descartes, latinizzato Cartesio. Cartesio è uno dei principali falsi materialisti della storia della filosofia. I prodotti, si solidificano in qualche modo, una sostanza, però è anche la grande forza in cui molti altri pensieri si portano nel tempo. Protrarsi nel tempo non vuol mica dire essere una, come dire, una essenza autonoma e indipendente. C'è un salto logico dal dire il pensiero è sempre una enunciazione, è sempre qualche cosa che avviene qui e ora, legata a delle persone. Alcuni di questi qui e ora sono in grado, più di altri, alcuni sono in grado più di altri, di far convergere, di catalizzare in quel qui e ora una serie di esi, di potenzialità che stanno in quel qui e ora. Quando Dante scrive la Divina Commedia, vive nel XIII secolo in Italia, è frutto del dibattito culturale e politico di una città litigiosa di mercanti, di scraziati che si chiama Firenze, delle lotte tra impero e papà, cioè è un uomo di quel periodo lì, però lui come tanti altri, adesso dico, faccio un esempio, scrivendo la Divina Commedia, lui queste palle, questi messaggi eterni, che palle, lui è un uomo del Medioevo, di quel Medioevo che sta per finire, ma è capace più di altri di cogliere delle valenze che superano quel momento particolare, perché sono pregne sinistra o cose che sono pregne di potenzialità, e quindi alcuni prodotti del pensiero umano possono essere letti, riletti anche a distanza di tempo, perché ci dicono delle cose anche a noi che non siamo più nella Firenze del secolo. Per questo possiamo leggere Platone, Aristotele, eccetera, tutte persone che pur essendo legate alla loro epoca hanno fatto. Ma questo, io posso dire questo dicendo, bene, questi sono gli effetti nel tempo di produzione. Perché devo, se uso la parola di Occam, perché devo supporre che ci sia una sostanza ideale ed eterna chiamata Platone che sopravvive? Non c'è un cazzo, non c'è niente. Sì. Ti metto solo in guardia dall'usare il termine o il concetto di natura. La natura degli esseri umani, se c'è, è di essere terribilmente indefinita. Noi siamo molto più, diciamo, indefiniti di altri animali. Non c'è un comportamento umano tipico. In questo senso io dico che non c'è una natura umana, nello stesso senso in cui c'è una natura elefantina. In questo è vero che noi siamo diversi, siamo un po' diversi da ogni altra specie animale. I nostri modelli comportamentali sono molto più variati, molto più fluidi e molto più ricchi di quelli di altre specie animali, perché abbiamo biologicamente sviluppato questa attività che si chiama linguaggio e che costituisce la, diciamo, cultura, e che è in grado nelle sue svariate diversità, nelle sue svariate molteplicità, di produrre comportamenti così, diciamo, diversi e così, diciamo, differenti. Adesso io sto, in questa fase, sto attento a non introdurre ancora il termine universalismo, perché voglio parlarne dopo. Adesso sto cercando di auto... ma capisco, no? Fai bene, tu fai bene a portare l'auto, ti stavo spiegando perché io non sto facendo, perché siccome è un diciamo, terreno molto molto delicato, quello universalismo-relativismo, adesso stavo cercando di chiarire piuttosto, diciamo, di concentrare me stesso sulla, diciamo, tematica monismo-dualismo. Anche perché vorrei prima o poi arrivare a spiegare Gehlen, perché se non arrivo a spiegare Gehlen è il paradigma di completezza, che è quello che ha lasciato il sospeso dall'altra volta, quindi voi non siete la mia posta tema. Quindi segnatele, tientela per un attimo sospesa questa questione, perché poi sull'universalismo, quando affronteremo l'universalismo, parleremo anche, diciamo, di questo. Allora, diciamo, vi dicevo, Cartesio è stato il primo, perché? Perché Cartesio ha dichiarato di essere materialista, addirittura ha dichiarato di essere meccanicista, che dicono, no, ma effettivamente gli esseri umani, gli uomini, eccetera, le cose si comportano, diciamo, anche il mondo della natura è un mondo meccanico, gli animali sono come automi, sono come macchine, sono come... E per una, da un certo punto di vista, come lui mette, però, qui il suo approccio è, siccome lui vuole praticamente ricostruire la filosofia dopo la crisi della filosofia scolastica, eccetera, eccetera, in maniera radicale, no? E quindi allora la sua opera più famosa è il discorso sul metodo, in cui lui mette in dubbio tutto. E a un certo punto dice, però arriva, no? No, ma io dubito di questo, e mette in dubbio tutte le concezioni dualistiche precedenti. A un certo punto però, siccome il metodo è sbagliato, dicono i francesi, reculé courmier sauter, rinculare per saltare meglio, prendere la rincorsa. Per prendere la rincorsa bisogna andare dietro, però ovviamente a un certo punto si deve per fermare, non puoi andare, se no vai avanti e vai giù dalle scale, giusto, finisci, che, quindi devi fermarti. Il punto in cui sceglie di fermarsi il Cartesio è il più insidioso, perché lui dice, dubito di tutto, dubito dei contenuti, dubito, ma non posso dubitare del fatto che io penso, no? Il fatto che io penso, dice, eccomi qua, sono qua, io penso, di questo non posso dubitare perché ho un'auto-evidenza, nel momento in cui io dubito, sto pensando, e quindi cogito ergo sum, quindi la mia esistenza dipende dal pensiero. E qui Cartesio ti mostra tutta la sua truffaldineria. No, è semplice, perché è il sum di cui tu non puoi dubitare, non il cogito. Il cogito è una sovrastruttura successiva, accidenti. Se tu poni, quindi la formula cartesiana va rovesciata, sum, o al limite esisto, sono, esisto dunque penso, non penso dunque sono. Se io affermo penso dunque sono, per forza di cose sono portato a dire allora il cogito, essendo la garanzia della mia esistenza, è ciò che mi fonda. Ma accidentato, ma io sono un essere di carne ed ossa, ho detto fino al momento prima che sono fatto come gli animali, che il mio corpo è uguale a quello degli animali, che... allora cosa vuol dire? Se io penso, e se d'altra parte c'è il corpo animale, vuol dire che dentro di me ci sono due diverse sostanze. La res, lui cambia solo nome, non lo chiama più anima e corpo perché vuol fare il figo, lo chiama res extensa, la cosa che si estende, la materia. E la res cogita, la cosa che pensa, lo spirito, l'anima, esattamente la stessa. Quindi, come voi, diciamo, capite, vi ho fatto l'esempio perché è uno dei più famosi della storia della filosofia, quindi è un reingresso del dualismo, il vero dualismo moderno è quel, quindi da questo punto di vista, per altri versi no, ma da questo punto di vista il cartesianesimo è una variante del platonismo, ma il dualismo ha, che bestia, questo dualismo, voi penserete che io sia ossessionato, un po' sì, però è una roba che fa dei, che fa dei guai poi, sì. La notte di San Bartolomeo, l'invasione dell'Iraq, queste robe qua, derivano in ultima analisi dal dualismo. A parte, in fondo tramite l'universalismo, però, quindi quella di quella è più responsabile l'universalismo. Della notte di San Bartolomeo è responsabile direttamente il dualismo, di tutte le guerre di religione sono responsabili il dualismo. Facciamo la pausa, ma a breve. Sono 4 sicuramente. Tra 10 minuti qua di nuovo.